tutti gli intervenuti e in modo particolare al patriarca di questa riunione, il professor Antonio Quacquarelli, che ringrazio in modo particolare perché mi ha dato occasione di ricordare, di riaccendere in questo giorno l'interesse per i testi patristici. L'occasione è data, come è stato dichiarato, ovvero dal completarsi del numero 100 della collana edita dalla Città Nuova di testi patristici. E se io ripenso a ciò che essa ha voluto dire e vuol dire nei giorni nostri per gli studiosi di cose cristiane, ma anche per un raggio più vasto di interesse di storia della letteratura, ecco, veramente sono impressionato di una serie che raggiunge un numero ormai così elevato. Mi ricordo ancora molto bene, non solo dagli anni degli studi miei, ma già dai primi anni di insegnamento, quanto era difficile aver per mano una traduzione italiana di testi patristici per una esemplificazione, per una lettura, eccetera. Al di là della bellissima e meritevolissima Corona Patrum Salesiana, ecco, era molto difficile trovare un testo patristico tradotto bene in italiano, semplicemente perché i più presumevano che la conoscenza del latino e del greco agevolava l'accesso ai testi diretti, e in certo qual modo nell'ambito italiano siamo stati pressappoco gli ultimi a sviluppare su larga scala una attività editoriale di testi tradotti bene, presentati in modo rispettabile e così via. Altrimenti, accanto alla Corona Patrum Salesiana, io ricordo c'erano quelle traduzioni spicciole della Cantagalli di Siena, che però non hanno avuto un grande successo proprio perché così isolate, così striminzite in testi scelti molto soggettivamente, e che per un uso soprattutto scolastico praticamente non hanno avuto un'incidenza. Ecco, credo che nel frattempo non solo è andato allargandosi l'interesse, ma è andato anche crescendo l'amore per i testi patristici, e chi l'ha curato, come il professor Quacquarelli, senza dubbio nella sua impresa è stato molto accompagnato e assistito da questo amore per i contenuti dei testi, che leggendoli e rileggendoli vengono scoperti nella loro importanza. Ecco, dunque ringrazio sinceramente dell'occasione che ci viene data di riflettere un attimo su questo fatto storico-letterario, vero, che raggiunge una sua meta, un suo traguardo con questa edizione. Ecco, con l'occasione io ringrazio anche i relatori di questa giornata, oltre il professor Quacquarelli sulla tematica che qui viene ricordata, il professor Gaspare Mura e il professor Renato Uglione, che è con noi quest'oggi. Devo scusare l'assenza del professor Beschin, il preside della Facoltà di Lettere, che mi ha telefonato ieri sera per dirmi che insomma, una breve indisposizione di salute gli impedisce di poter essere a Trento oggi. Al suo posto subentra direi la speranza più densa che noi abbiamo nel ambiente universitario trentino e nelle adiacenze del nostro Istituto di Scienze Religiose, vero, il professor Gianotto, vero, che è stato pregato dal professor Quacquarelli di subentrarli in questo intervento. Allora, se credete, vero, l'esposizione cronologica procede intanto con un intervento del professor Gianotto, poi il professor Gaspare Mura, Quacquarelli e Uglione. Muranger, ah, lo sa, la prendo adesso. E di fatto, insomma, qui le sedie scarseggiavano, si vede anche in vista di questo. Ecco, a me non resta altro da dire se non da augurare sinceramente che l'interesse per questa materia, che l'irradiazione del contenuto del patrimonio teologico e letterario del mondo patristico, in un tempo in cui la riflessione su tutto il mondo delle cognizioni religiose, su tutta la teologia, è così fortemente in evoluzione, in cui noi ci troviamo in uno stato di vera e propria Glaubenswende, di svolta forte del modo di cogliere e di ripresentare al vivo i contenuti della fede, ecco che la confidenza maggiore col pensiero patristico ci aiuti validamente in questa impresa e che l'interesse per una lettura meditata dei padri possa crescere ampiamente anche fra di noi. Allora, professor Gianotto, si può spiegare. Porgo anch'io un saluto a tutti i convenuti. Scuso ancora una volta il preside, il professor Beschin, che non ha potuto essere presente. Dirò due parole sul senso di questo incontro. Intanto, come voi saprete, il problema dello studio dei padri della Chiesa è un problema che, come ha detto Monsignor Roger, coinvolge tante forze che però purtroppo sono scarsamente rappresentate nelle istituzioni ufficiali, diremmo. Qui a Trento, per fortuna, c'è una cattedra di letteratura cristiana antica che è stata coperta dal 1987 fino al 1990 dal professor Ceresa Gastaldo, che alcuni di voi conosceranno e che ha partecipato anche alle attività dell'Istituto di Scienze Religiose Trentine. Poi il professor Ceresa Gastaldo ha dovuto rientrare nella sua città di origine a Genova e quindi il posto è rimasto scoperto e in questo momento quest'anno ho ottenuto io l'insegnamento per affidamento. Quello che voglio dire è che si vede che lo studio dei padri della Chiesa nelle università di Stato e, come dirà tra poco il professor Ruglione, nelle scuole secondarie superiore, purtroppo risulta ancora una disciplina che ha di fronte a sé dei grandi spazi da occupare, che però non riesce perché è difficile far entrare così nella cultura, nei trend culturali generali, queste discipline che sembrano un po' delle cose strane, che gli studenti sono un pochino sprovveduti, perché di fatto anche la scuola secondaria non prepara ad apprezzare, non fornisce quella curiosità che potrebbe fare, come lo fa per esempio con gli autori classici che tutti conosciamo, almeno quelli che hanno fatto i licei, che sono quelli che appunto propongono l'ideale della cultura classica allo studio. L'occasione di questo incontro ci è data dalla pubblicazione, siamo arrivati al 100° volume, come avete visto, anzi il professor Coccarelli mi ha detto che abbiamo già superato il numero 100 nella collana testi patristici della Città Nuova che il professor Coccarelli dirige. 100 è un numero simbolico, è stato un lunghissimo percorso di una collana che, come ha già detto Monsignor Roger, è benemerita nella tradizione pubblicistica italiana perché è stata una delle prime che ha messo sul mercato la possibilità concreta di avere accesso alle fonti patristiche che altrimenti erano disponibili soltanto o in edizioni costose e poi di carattere molto specialistico universitario e quindi non potevano essere accostate da tutti. È un'occasione di riflessione, di riproporre il problema, di affrontare con i mezzi che abbiamo a disposizione, questo è uno, appunto di cogliere l'occasione per diffondere la conoscenza di come dire, tutto un blocco di fonti che anche nella tradizione teologica degli studi teologici ha avuto come dire, un interesse marginale rispetto per esempio all'esplosione degli studi biblici, che però rimane come dire, uno studio fondamentale per capire lo sviluppo della tradizione cristiana.